Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail, molto semplice, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi prego di mandare delle mail che possano riguardare dei casi molto ampi, così come chiedo di avere pazienza ai tanti, tantissimi che continuano a mandare in redazione lettere sconsolate, disperate, di accuse nei confronti del servizio di telefonia reso da moltissime compagnie. Purtroppo lo sappiamo tutti, ma se dedicassi le puntate soltanto a questi temi, probabilmente non farei altro nel corso di questa trasmissione. Allora, abusi o supposti abusi? Beh, oggi parliamo di un caso abbastanza interessante. Tutti voi sapete che delle liberalizzazioni il precedente governo, il governo di centrosinistra, segnatamente il ministro per le attività produttive Pierluigi Bersani, avevano fatto un cavallo di battaglia. A onor del vero, dall'attuale governo non mi pare neppure di aver sentito un inizio di liberalizzazioni, ma forse mi sbaglio io. Questo senza dare un giudizio politico sulle parti, cosa di cui non mi interessa assolutamente nulla. Fra le tante liberalizzazioni che erano state avviate dal precedente governo e che sembrano essere rimaste a metà, c'è quella curiosa, però importante, che riguarda la liberalizzazione delle scuole guida. E perché ne trattiamo oggi? Perché riguarda migliaia di piccoli potenziali, piccoli imprenditori che volessero mettere su una scuola guida, e che riguarda segnatamente il radioascoltatore che ci ha segnalato questo caso, che si chiama Renato Vietri e ci ha scritto da Lissone in provincia di Milano. Benvenuto Vietri. Grazie, buongiorno a lei. Allora, qual era il suo sogno? Descriva un pochino qual è la situazione. Niente, appunto, come ha ben detto lei, nel 2007 il settore delle scuole guida è stato liberalizzato e di conseguenza è passato dal avere autorizzazione da parte della provincia per l'apertura di nuove scuole guida ad avere solamente il DIA, ovvero la dichiarazione di inizio attività, e in seguito a questa dichiarazione è possibile appunto aprire una scuola guida. Peccato però che fra i requisiti occorre essere insegnante di teoria e o istruttore di guida. Per sostenere questi esami occorre seguire un corso che era facoltativo e che adesso è obbligatorio, e appunto effettuare un esame che consiste in prove pratiche, voglio dire, vabbè, poi il dottore ci aiuterà in questo, e teoriche. Purtroppo però questi esami al momento sono bloccati in attesa del decreto attuativo. Ok, allora ricapitoliamo un secondo la situazione. Nel 2007 il governo Prodi liberalizzò anche questo settore, vale a dire il settore delle scuole guida. Tutto bene. Però il problema è che manca un decreto che permette a lei, a chi come lei vorrebbe aprire una scuola guida, proprio per sostenere questo esame, quindi di fatto è una liberalizzazione che non è mai partita. Dico bene, Vietri? A metà. Ecco, è partita a metà. Mi scusi, ma prima in capo a chi era la decisione di far aprire o meno una scuola guida? La provincia. Era la provincia quindi responsabile? L'ente provincia in base al numero di abitanti nella cittadina, paese, o città. Comunque erano licenze a numero chiuso, tipo parrucchieri. Benissimo, quindi erano contingentati, insomma, diciamo, gli esercizi che potevano consentire ai coloro i quali volevano prendere la patente, appunto, di recarsi presso uno di queste scuole guida e imparare pratica e teoria, anzi, prima la teoria e poi la pratica. Allora, il caso mi sembra abbastanza chiaro, anzi invito i radioascoltatori anche a segnalarci altre liberalizzazioni a metà, perché le tratteremo, e passiamo la parola a Giorgio Schiavo, che è il presidente onorario di Confederta, e la confederazione, una tra le più importanti confederazioni che raggruppa al suo interno i gestori e i titolari di agenzie di scuola guida. Salve Schiavo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto è corretto ciò che ha denunciato il radioascoltatore o c'è qualche puntualizzazione da fare? Ma puntualizzazione sarebbe non quello che ha detto l'ascoltatore, perché lui ha perfettamente ragione, ma il conduttore. Prego. Che ha detto che questa liberalizzazione era stata fatta da Bersani, ma è stata fatta una liberalizzazione così, proprio alla vogliamoci bene, perché ha liberalizzato le autoscuole, i barberi, i facchini, i parrucchieri, ma non mi pare che abbia fatto liberalizzazioni consistenti ed importanti. Beh, questo è un giudizio di parte, io non ho espresso giudizi. No, io non ho espresso parte, giudizi, ho semplicemente... deve saperlo, che insomma alla fine ci siamo fermati così. No, ma questo sicuramente potremo starne qui a discutere per ore. Quanto, io ho semplicemente segnalato il fatto che dei processi di liberalizzazione sono stati avviati. Se poi sono buoni, cattivi, deludenti o non deludenti, non sta a me dirlo. Anzi, siamo qui proprio per parlare di un, mi pare, di un percorso deludentissimo, che è quello che vi riguarda da più vicino, più da vicino, no? Sì, ecco. Ma a parte questo qua ha ragione l'aspirante collega, esatto, mio, perché lui avrebbe diritto ad aprire un'autoscuola nel momento che ha i requisiti per poterlo fare. Ecco, ma mi scusi, schiavo, così, con probabilmente con una stima che è possibile fare in maniera assolutamente approssimativa, secondo lei quanti sarebbero gli aspiranti titolari di un'agenzia di scuola guida che in questo momento, come il nostro radioascoltatore Vietri, stanno attendendo un decreto che invece è bloccato? Ma dunque, bisognerebbe sentire se questa persona è già munito di idoneità alla guida e teoria, e allora di questi ce ne sono, e questi riescono ad aprire l'autoscuola regolarmente, cioè se hanno i requisiti e sono insegnanti e istruttori, allora ce ne sono parecchi. Difatti di autoscuole se ne sono aperte circa 600 sul territorio nazionale, e queste erano aperte quasi tutti quanti quelli che già avevano un'autoscuola, quindi il principio di Bersani di lavoro ai giovani è andato a farsi benedire. Mentre se lui non ha questi requisiti, beh, dovrà aspettare moltissimo tempo. Ah, beh, questa non è una bella notizia. No, decisamente dovrà aspettare moltissimo tempo, perché il decreto che doveva uscire a distanza di 180 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale è tuttora fermo e tuttora rinviato dal Consiglio di Stato, perché non era esatto, non era confacente per le province, ci sono delle cose che non vanno, insomma, e quindi l'hanno rimandato proprio in questi giorni indietro per una questione tecnica loro. Perché dice che bisognerà aspettare ancora moltissimo tempo? Perché lei pensa che ci siano delle modifiche sostanziali e quindi si andrà alle calende greche? Ci saranno delle modifiche sostanziali. A questo, quindi immaginiamo che ci sia, con tanta buona volontà, altri 6 mesi. Ma terminato questo, se lui non è insegnante istruttore, deve fare il corso è obbligatorio e gli esami di insegnante e di istruttore, tutte e due. Poi debbono passare 2 anni dal momento che lui è diventato idoneo ed è stato assunto presso un'autoscuola oppure la sua autoscuola, cioè quella del padre, di qualcuno, certo, se sta nel campo nostro. Allora, in quel caso dobbiamo passare 2 anni di esperienza dimostrata per poter iniziare ad avere l'idea di avere un'autoscuola per conto proprio. Insomma, in Italia è sempre tutto abbastanza complicato, mi pare di capire. Prima di tornare da lei, schiavo, volevo chiedere a Vietri, è chiara la situazione? No, ma nel senso, qui siamo al punto di partenza, perché appunto l'apertura è stata liberalizzata naturalmente con i requisiti, ma se noi non possiamo abilitarci, i requisiti come li prendiamo? Cioè, quello che volevo chiedere al dottor Schiavo. Perfettamente, noi abbiamo iniziato a fare i lavori su questo decreto dopo 6 mesi, cioè alla data della scadenza, perché non era un termine così, mi hanno detto, io non lo sapevo, non sono un giurista, un teorico. Non c'era scritto termine perentorio, ma era soltanto, e allora questo, certo, ha permesso di andare avanti. Questo è un trucchetto, diciamo così, dietro il quale molto spesso i giuristi si celano, essendo un termine perentorio, esatto. I giuristi, i legislatori, indubbiamente, sì, certo, questo certo, termine certo. Di 6 mesi, 4 mesi o 8 mesi che danno, poi può diventare un anno e mezzo tranquillamente. Assolutamente, come è capitato il caso nostro. Assolutamente, quindi si parla di termini non perentori, ma di termini ordinatori. senatori, così come si esprime il legislatore. Un'ultima domanda volevo farle, Schiavo, ma questa liberalizzazione a metà o questa mancata liberalizzazione sta portando, ha portato anche ad un abbassamento delle tariffe oppure no? Guardate, io adesso stavo facendo per il sottosegretario un'analisi dei costi di un conseguimento di patente comprese 20 ore di guida per il nord, il centro e il sud. E devi sapere, al nord viene a costare intorno a 850 euro, sì. Al centro viene a costare 600 euro e al sud viene a costare circa 750 euro, quasi come a Milano. Insomma, una differenza, cioè, sostanziosa. Siamo in un prezzo che è un prezzo adeguato, 20 ore di guida e 20 ore di teoria, perché poi gli devi fare anche la teoria, sono 40 ore che un docente, insegnante, istruttore deve dedicare agli allievi per poter fare, conseguire la patente. Bene. Le lezioni di guida sono individuali, le altre sono collettive. I ragazzi ormai sono rimasti molto pochi, quelli che devono prendere la patente. Quindi io direi a quel signore che vorrebbe diventare mio collega, intanto veda se trova qualcosa da fare di meglio, perché in questo momento non può fare. E poi, se mi vuole raggiungere telefonicamente, l'autorità a dare il mio numero di telefono, e io posso consigliargli tutto quello che può essere. Non so se benissimo. È giovane, se poi dopo lo vediamo questo qui, lo vedete mettendomi in contatto fra di voi. Bene, a questo punto io direi che il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi grazie a Giorgio Schiavo, presidente onorario di Confedertai, e al nostro radioascoltatore Renato Vietri, in regia Pietro Lacorte e in studio Laura Faggine. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.